Non cambia assolutamente nulla, le consultazioni sono state fatte, secondo noi non c'è nessuno legittimato a fare il Presidente del Consiglio dopo la caduta del governo Prodi, si deve andare a votare. Io chiederò al centrodestra, ai partiti del centrodestra, se Marini dovesse fare le consultazioni, di non partecipare alle consultazioni. È un rito inutile da Prima Repubblica. Deve prendere atto il Presidente della Repubblica che non ci sono le condizioni per un nuovo governo e sciogliere subito il Parlamento. Capisco che il Partito Democratico e quelli della sinistra abbiano paura delle elezioni e abbiano paura di perdere. Non è un buon motivo per prolungare l'agonia di una legislatura che ormai ha finito. Bisogna sciogliere le Camere, andare a votare e nel giro di 2 mesi si può avere un esecutivo, non di scopo di transizione, ma un esecutivo vero che affronti i problemi veri del Paese, a cominciare dalla crisi e a cominciare dal potere di salari e stipendi e dei redditi delle famiglie. Quello che c'è, il governo Prodi dimissionario, che può essere rimanere in carica per l'amministrazione ordinaria fino a che subentra il nuovo esecutivo. Poche settimane si può fare tutto, elezioni e nuovo governo.